Letture di Radio 24. La Nigeria, 28ª potenza mondiale, è diventata negli ultimi anni la più grande forza economica dell'Africa occidentale, entrando a far parte con Messico, Indonesia e Turchia del MINT, l'acronimo che identifica i prossimi giganti dell'economia. Ma sul più popoloso paese africano incombe l'incubo del terrorismo islamico, con la setta di Boko Haram impegnata a bloccare con ogni mezzo la diffusione del sistema educativo occidentale. Per dimostrare la loro ferma opposizione all'istruzione delle donne, nei giorni scorsi i terroristi hanno fatto irruzione in un istituto femminile, hanno sequestrato 276 ragazze di età tra i 12 e i 17 anni e hanno annunciato in un video di volerle mettere all'asta come schiave. Vendere come schiave centinaia di alunne catturate è solo l'ultima di una lunga serie di gesta efferate che vede Boko Haram, protagonista di una campagna di pulizia etnica in Nigeria, simile a quella condotta dai Janjaweed nel Darfur sudanese. Nato nel 2002 come movimento contro la cultura occidentale, guidato dal fondamentalista islamico Mohamed Yusuf, eliminato nel 2009, Boko Haram nel 2013 è stato inserito dal Dipartimento di Stato nella lista delle organizzazioni terroriste sulla base di informazioni che attribuiscono al nuovo leader, Abubakar Sekau, la scelta di operare con Al-Qaeda nel Maghreb islamico, testimoniato da blitz in Camerun e Niger, eseguiti insieme a gruppi jihadisti locali. Ma la definizione di terroristi islamici non basta a spiegare la natura di Boko Haram, che nella Nigeria del Nord si distingue per l'efferatezza delle proprie azioni. Incendi di chiese, stragi nelle scuole, rapimenti di massa, decapitazioni di agenti di polizia e leader musulmani sommano un bilancio di vittime dal 2002 al 2013 oltre quota 10.000, molte delle quali eliminate con metodi orrendi come raggruppare alunni in classi date alle fiamme, bersagliare villaggi con frecce avvelenate, gettare motorini bomba nei mercati e praticare lo stupro di massa per cambiare l'identità di intere regioni. L'africanista Ali Masrui della Cornell University di Ithaca spiega che Boko Haram somma due identità, il fondamentalismo islamico e l'etnia Hausa nel nord della Nigeria, in rivolta contro il governo centrale. Tutti gli Hausa sono musulmani, come tutti gli Igbos nell'est sono cristiani, mentre nell'ovest i Yoruba sono metà cristiani e metà musulmani. L'intento di Boko Haram è spingere gli Hausa a staccarsi dalla Nigeria, il cui presidente è il cristiano Goodluck Jonathan, e liquidare nel nord ogni presenza di cristiani e di musulmani infedeli. Per questo Masrui usa l'espressione pulizia etnica per spiegare stupri di massa, vendita di ragazze schiave e incendi di chiese nei villaggi. Ma non è tutto, perché Chris Nvodo, analista nigeriano, attribuisce la capacità di Boko Haram di resistere alla repressione governativa a un messaggio sul disagio sociale nei confronti di un governo che distribuisce solo alle élite i proventi del greggio, innescando una moltiplicazione di gruppi islamisti. Una moltiplicazione che spiega perché Sekau non è il leader assoluto del movimento. Come osserva John Campbell del Council of Foreign Relations di New York, indicando in Khalid al-Barnawi e Maman Nur due discepoli del fondatore altrettanto feroci. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Maurizio Molinari, Quel mix folle di Sharia e pulizia etnica, dalla Stampa del 6 maggio. Letture di Radio 24. Il penoso spettacolo del leader degli ultra napoletani che detta legge allo stadio prima della finale di Coppa Italia ha fatto il giro del mondo, ma per qualcuno ha rappresentato solo l'ennesima occasione per gettare fango sulle forze dell'ordine. Come se il nemico pubblico numero uno fosse il poliziotto e non il violento di professione, commenta Marco De Marco nell'editoriale di prima pagina del Corriere della Sera di martedì scorso. Degradare gli irresponsabili o allontanarli dal servizio pubblico è il minimo che si debba fare. E quello che è successo con gli applausi di solidarietà ai condannati dal caso Aldovrandi non deve ripetersi mai più. Ma continuare in un'opera di delegittimazione dei corpi di polizia sarebbe un vero suicidio da parte dello Stato e, come ha detto Napolitano, un grave colpo all'identità nazionale. Questo rischio è tutt'altro che remoto. Si rifletta sulla catena di misure legislative di recente ipotizzate o rispolverate. Prima la richiesta di apporre su tutti i caschi e su tutte le divise un ID number, un codice identificativo. Poi l'invito avanzato al capo della polizia dal presidente della Camera Boldrini, su suggerimento del presidente della Commissione diritti umani Luigi Manconi, di eliminare il segreto dai procedimenti disciplinari interni al corpo. Infine, l'accelerazione, data guarda caso proprio in questo contesto, alla discussione parlamentare sul disegno di legge che introduce il reato di tortura. Tutto ora, tutto insieme, come se il nemico numero uno fosse il poliziotto, non il violento di professione o chi attenta al bene comune. Eppure, i tempi e i modi, il se e il come, non sono meno importanti del cosa si fa. Se c'è infatti un evidente bisogno di adeguarsi alle consuetudini internazionali, c'è anche, e ignorarlo sarebbe non solo imprudente ma colpevole, un elementare principio di difesa di chi, in condizioni difficili, deve garantire la sicurezza dei cittadini. In Inghilterra l'ID number sulle divise c'è dal 2005, ma è da tempo che lì negli stadi si va con la famigliola al seguito, senza l'incubo delle bombe carta o delle risse sugli spalti. Anche in Svezia e in Germania gli ufficiali di polizia sono tenuti a farsi facilmente identificare. Eppure non risulta che da quelle parti le finali di Coppa dipendano da un Jerry a Carogna o che un Gastone già noto ai giudici possa tirar fuori una pistola e sparare per uccidere. Una foto può inchiodare un poliziotto e farlo diventare un mostro nell'atto di schiacciare una ragazza e il suo dissenso, ma una telecamera sul casco avrebbe potuto aiutare la ricostruzione del contesto, rendendo l'istantanea meno ingannevole. Eppure, le foto ci sono, le telecamere non ancora. Può sembrare un paradosso, ma gli addetti ai lavori dicono che nel corpo a corpo gli uomini in divisa di solito hanno la peggio. Da qui la richiesta di fissare un limite minimo di distanza per i manifestanti. Sarebbe un ulteriore e inutile formalismo. Può darsi. Ma quanta sommarietà, quanto populismo istituzionale e quanta demagogia ci sono nel chiedere oggi, in nome della trasparenza, ma nell'indifferenza di una possibile incostituzionalità, la pubblicizzazione degli atti relativi ai provvedimenti disciplinari dei poliziotti e solo dei poliziotti. Di lotte spettacolari ne abbiamo già viste tante. Di spettacolari vittorie dello Stato, a partire dagli stadi, non abbastanza. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Marco De Marco, Un malessere giustificato, dal Corriere della Sera del 6 maggio. Sono sorelle, sono giovanissime e le loro voci hanno già incantato migliaia di persone. Con il loro album d'esordio, Lily e Madeleine hanno dimostrato che nel mondo della musica c'è ancora spazio per i buoni sentimenti e che si può essere brave ragazze senza essere noiose. The river is white. It's tangled and dry, but I still remember you here. Swimming in the middle. Per ogni Kate Middleton c'è una Pippa, scrive un profetico rotocalco. Il fascino della sorellanza traversa anche la musica leggera dai tempi delle famigliole canterine, perché c'è qualcosa oltre quell'intimo accordo tra due voci che si conoscono da sempre, che magnetizza l'attenzione degli investigatori del pop, qualcosa che risale su fino alle musiche da cameretta, alle cantilene nate per andare oltre la noia pomeridiana. Un quale esoterismo, il metafisico della comunicazione tra due prodotti dello stesso grembo, che prende forma di canzone. A rinverdire questa pregiata discendenza arrivano Lily e Madeleine, le sorelline che con l'album che porta il loro nome hanno alzato l'asticella del fenomeno. We were not afraid of the mess we made. The silence as it grew did not faze me and you. Getting